Europa 24. E un saluto da Anna Migliorati. Il giorno dopo Malta, sulla questione migranti si apre una nuova discussione. Mentre l'Unione Europea e gli Stati africani erano riuniti alla Valletta, i paesi europei hanno adottato misure di controllo dell'immigrazione molto preoccupanti, che non lasciano molto spazio all'ottimismo. Così Nils Muizhnieks, commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, sulla sua pagina Facebook critica oggi il ripristino di Dublino da parte della Germania, ma poi anche i muri di Ungheria e Slovenia e la reintroduzione dei controlli alle frontiere, tra cui in Austria e Svezia. E intanto, in questi minuti a Bruxelles è in corso un nuovo Ecofin nel Consiglio dei Ministri degli Affari Economici e Finanziari. Stiamo entrando nella fase finale per trovare un compromesso sul budget europeo, quello per il 2016, in un clima costruttivo, ha spiegato, lo sentite, il ministro dell'Economia del Lussemburgo, presidente di turno. Il tema centrale anche in questo caso, anche sul fronte del bilancio europeo, ha spiegato, è quello dell'accordo sui fondi da destinare proprio all'emergenza migranti. E per quanto riguarda i dati economici, segnali di rallentamento arrivano però intanto dall'economia in Europa. Il PIL del terzo trimestre dell'Eurozona è cresciuto dello 0,3% rispetto al precedente, nel secondo era cresciuto dello 0,4%. Restano buone le prospettive sui 12 mesi, ma è un altro segnale comunque dopo il nuovo inatteso calo della produzione dell'industria nell'area euro a settembre. E intanto l'Europa si prepara anche ad affrontare un'altra sfida, quella del clima, in vista dell'apertura del vertice di Parigi ormai vicino. Per garantire la sicurezza della COP21, la Francia ha ripristinato da oggi i controlli doganali lungo i suoi confini, un provvedimento temporaneo previsto dalle regole di Schengen. Anche l'Europa arriva con buoni propositi. La conferenza ONU per il clima ha già presentato la sua lista di intenzioni, una riduzione del 40% di gas clima alteranti su base annua entro il 2030, e per rispettare questo obiettivo l'Unione adotterà anche misure di controlli periodici ed eventuali sanzioni nei confronti degli Stati membri. L'accordo della prossima conferenza ONU di Parigi sul clima dovrà essere legalmente vincolante, ha ribadito ancora questa mattina la portavoce della Commissione europea su energia e clima, tanto da sfidare gli Stati Uniti più cauti su questo. Ma anche in Europa ci sono posizioni diverse, parla di misure comunque inadeguate Monica Frassoni, presidente dei Verdi europei. L'ha intervistata Cristina Carpinelli. Lo vedo come insufficiente, e soprattutto il problema fondamentale che c'è è che non è chiara la volontà di veramente realizzarlo. Quindi non è solamente una questione concreta, i numeri non sono sufficienti, i soldi non sono sufficienti, ma è proprio una questione di capire se l'Unione Europea vorrà davvero realizzare questi obiettivi. E questo è un tema che può sembrare psicologico o emotivo, ma è uno dei temi fondamentali che spiegano perché l'Unione Europea ha perso a livello globale la sua leadership in questo tema, perché si percepisce che non è particolarmente seria nella sua azione climatica. Europa e sport, in Italia domani, appuntamento a Torino. Lo sport è tutt'altro, è un'espressione di se stessi, è passione, è puntare in alto. Un muro scrostato, davanti al quale c'è una cattedra e sulla cattedra una palla con la bandiera europea. Si vede questo nel video di una classe di un liceo torinese, una scuola, come direbbe il maestro Marcello D'Orta, sgarrupata, che miracolosamente però non fa sentire sgarrupati i suoi ragazzi, che con slancio e passione hanno partecipato al concorso indetto dal Parlamento europeo Io, l'Europa e lo Sport, e che domani a Torino vedrà i vincitori per il miglior video. Tiziana Beghin, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. È un'iniziativa che il Parlamento europeo sta portando avanti, un'iniziativa che secondo me ha il grande pregio di portare al centro della narrazione, diciamo, il mondo dello sport, visto come valore educativo e modo di grande integrazione sociale. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ci fermiamo qui, come sempre l'Europa vi aspetta ed effetto notte. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.